ascolti con questo microfonino? Bene, ti ascolto, la radio è normale però, ma ci vedi. La radio è normale, vabbè, ho aperto il micchiere. Guarda, vedete. Bella è, normale, pulita, bella chiara, non ci sono problemi. La gaba. E l'amplificatore, ma funziona? Non lo so, sono arrivato adesso e sono venuto a prendere la gallina, era a piedi. Non lo so, è dentro la busta, già funzionerà, l'ho provato ieri. Comunque dai, negativo, il positivo sta andando qua. Non è grande, 35-40. E allora questo rosmettino che non serve, perché sta andando negativo. Beh, infatti, quei rosmettini non servono mai. No, sono con l'850 in digitale, perfetto. Ma anche l'alimentazione che è un po' bassa, capito? E ancora va bene, comunque va bene la radio, con la mia voce va bene. Allora, adesso tu guardi la mia voce e mi dici se esce meglio Gavino con questa radio o esco io meglio con questo, sempre con la stessa radio, eh? E beh, qua, dove stiamo? Io non c'ho più alcun diritto. Adesso le regolerò gli altri a Massimiliano, ok? Se ci dici, se si può dare un pochino più di acuti perché tu la porti meglio. La mia è più squillante la voce, la sua è più grossa, più rude. È più maschio la sua, voce la fa, ma c'è lui. Ma bocca, ci sentiamo, eh? Adesso chiudiamo tutto e andiamo a vederci la partita. Che partita c'è? È il Milan con Barcellona, al... dov'è? Al Bernabéu. Ma non lo sulla Rai? Negativo. L'andata era sulla Rai, questa volta invece era Super Premium o Sky. Vabbè, no. Se è Sky, vabbè. Se è Premium, già lo vedo anch'io, se è Sky, vabbè. Magari più tardi chiamami Massimiliano, facciamo una prova con quella bestia, beh. Qua, secondo che la me ne vado, sì, se no la prova la possiamo fare domani sera, hai capito? Penso che se lui ha provato con 5 watt, le dà 400 watt in quinta marcia, con quello modificato dovrebbe dare intorno, io penso da intorno ai 450. Ci aumentava un bel qua, aumentato un bel qua con 5 watt, mi immagino col tuo e col mio cosa va con l'amplificatore. Va bene, dai, non vi trattengo, anch'io vado a mangiare. Allora ci sentiamo dopo se coincide, altrimenti a domani. Ciao a tutte e due. Ciao Clara, ci sentiamo. Comunque quello che c'è a casa tua, se riesci a darlo per quella cifra là, lo diamo. Sì. Se ci riesco, sì, Massimiliano. È che è un periodo che la gente non c'ha soldi, comunque. Se riesco a darlo, già lo do, capito? Vabbè, ok, dai, buona serata, Clara, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao ciao. Se rientro presto, già chiamo, là. Chiama, tanto qua è tutto acceso, non c'è problema. Ciao ciao. Ciao. Hola, hola. Sono avanti. Bene, allora. Tutto bene? Ehi, sto bene, tu? Oggi è tutto bene. Mi sto per trasferire, sto per andare in BM, dai. Ehi, vabbè. Ma non è in postazione, già da sera ghizzo. Che bella. saluto tutti, sto andando a mangiare, se no ci sentiamo dopo, ok? Ciao, saluto Nicola. E io dai, c'è Gennaro anche la monorba, ci sentiamo dopo Gennaro, ti chiamo dopo dai, che vado a finire di mangiare, riprendi Fabri. Sì, riprendo io dai, chi è che c'è su questo canale? Buongiorno Fabri Antonello, dai, Peter Pan da questa, vi rientro. Sì, Roger, anche io dai, mi trasferisco un attimo in BM e mi accompagni da qua la trucutiaca. Fabri Roger. Ok. C'è anche Gennaro, ciao, mi sentite? Aspetta, c'è anche Gennaro che chiama. Avanti Gennaro, la Monorba. Gennaro, mi ascolti? Tutto a posto, è Caffa Roger, qui a Sassari tutto a posto. Ultimamente qua, Santiago, qua G9 e Radio 5. Delta Mike. Non ti sto capendo, non ho capito, Delta Mike. Ho capito, sì, ma riesce bene, che modello è? Arrivi forte, va bene, non c'è male, anzi, mi sembra che vai un po' meglio degli altri giorni, non vorrei sbagliare, ma io non ho molta memoria, però mi sembra che vai un po' meglio. C'è anche un altro amico, ti rilancio se lo ascolti, però mi sembra che era in BM, quindi magari ti viene un po' più difficile ascoltarti, avanti. Gaffa Fabri, no, non penso che mi copi, dai, sono più qua. Anch'io credo che non ti cuppi, eh. E no, non hai ascoltato? In macchina sarebbe chiedere troppo. Dammi un controllino invece a me, come sto uscendo. Allora va bene, dai, non c'è bisogno, vado bene con i pochi watt, non c'è bisogno di altro, no, va bene, dai, no problem. Da qua, bene o male, la zona è buona. E arriviamo bene più o meno da tutte le parti, quindi ci facciamo sentire, dai, non c'è problema. Però se Antonio è rientrato, ha preso, perché era dalla QTH fisso, c'è in BM, avanti Anto. Niente, non si sente, stanno facendo ancora scaldare le candelette. E prendi tu l'IBM, vedi un pochettino, da che parte ti trovi ora? Fabri, dai, da parte mia qua da Daniella, quasi deposito, glielo sganciamo lì. Quindi sei arrivato e finito, dai. Sì, era anche ora per oggi. E che ora è iniziato? No, ho iniziato l'orario buono, Fabri, alle 8, dai, che dovevo agganciare un rimorchio lì a Porto Torres. Non è poco, sono 8-12, 13 ore in macchina. Di Rogero, Cappa di Rogero, anche oggi la giornata è fatta. Vabbè, finché ce n'è bisogna approfittarne. Cappa di Rogero Fabri, non bisogna lamentarsi, bisogna passare l'altro e se ne andare, non sono tempi. Lo so, però anche questo discorso sta diventando una cosa vergognosa, abbassare la testa. Oh, si sta abbassando un po' troppo oggi la testa, Cappa di Rogero, Cappa di Rogero Fabri, purtroppo è così. Per carità, che facciamo perdere, dai. Gennaro, e tu cosa ci racconti? Ho capito, e tu cosa fai Gennaro di bello? A casa. Ma lì a Monorba, sì, quindi ormai si è trasferito a Monorba. Sì, esatto, 9:30 con la radio, con la quanto. E vai attaccato, posso. Buonasera, no, ma oggi sta arrivando bene Gennaro, non gli puoi dire niente, qua sta arrivando bene. Va bene quel baracchino, una buona radio, con un po' di eco, leggero, e arriva veramente bene. Se hai il segnale va bene, non ha problemi, però mi sembra più alto degli altri tutto tirato, allora sulla potenza. Non dire niente, si schiaccia. 50 però, 80. Si schiaccia, ti schiaccia. Non so se anche il tuo è così, Fabri. Da 50 va di schiaccia. Dico sale a 100. Sì, sì. Anche... aspetta. Mi abbasso. Oh. È attaccato, problema. Sì, anche... beh, troppo alto, caro. Sì, così va bene. No, anche il mio, non ha problemi. Il mio l'ho toccato da... l'ho sul e si è fermo, però accenderò proprio. No, però anche il mio comunque va così, già sarebbe bene. Cioè, quello lì, il 160 mi segna qua massimo, ma lo devo controllare se sta arrivando un altro strumento per vedere i watt effettivi. Deve essere un pochettino 140 e dovrebbe dare comunque. Niente. Gennaro, c'è anche qua Gennaro, oggi boh, non lo so, a me mi sembra che stia arrivando meglio in questi giorni, anche qui sta arrivando intorno ai 9 a me Gennaro, la radio va per buona, anche qui più o meno, quindi voglio dire, boh, gli altri giorni mi sembra che arriva più basso, no, non lo so. Sì, già l'aveva visto, l'importante è che ci sentiamo comunque, aspetta che c'è anche, che abbassi, ma perché sono... bacciano così perché c'è anche lo zingaro qua a cazzo ti stava sovramodulando qua a me no me ne fa tanto di queste cose se mi sono caffè lo può fare ma c'è da gas però altrimenti neanche da vero caffè lui mi sovramodula ma Claudio ciao me no ad Antonio dove sei sotto casa perché erano 960 comunque c'è Rottoni a tutta la rotella ciao fate cazzo mi ramazza le stagie già sta che bella ancora troppo farlo sentire a Mauro cazzo tu sul canale 16 ma ci trovato che c'era ci rendi sotto sopra addirittura cazzo con i baracchini se ci sei tu non posso accenderli io o stai qua nel mio canale se no non posso accenderlo. Allora sono passato col 140, non ti sentivo più. Ciao Antonio Bombolo, buonasera. Sì, Milan sta perdendo, adesso deve fare due gol per vincere. Ma hai capito che perde il campionato e perde anche la Champions. Non ci sono problemi. Questo era dato per scontato. Perché avevi dei dubbi, Bombolo. Non riprende più Bombolo. Va bene. E mi hai provato a vedere quanto arrivi via a Bonova o Fabri. Beh, se è migliorato qualcosa, se... no, qua è 9 più 5, 9 con picchi positivi e 9 più 5 è Gennaro, non per forza arriva, sì, c'è un altro tipo di radio, e sicuramente arriva molto meglio di quella là, capito? Sì, infatti, no, anche qua, io sì, ho fatto un controllo intorno al terreno, io... adesso quanti sono? Aspetta 10, 12 e 50 qualcosa del genere di picco intorno agli 8 torno ai 4 quindi vabbè se sollevi sono intorno ai 9 più o meno quel segnale va più che bene no, ma anche lui mi dava dei controlli ma sembra che gli sia migliorato un po' tutto come che abbia toccato l'antenna allo basso ciao Claudio buonasera ciao Bombolette salutato già due volte avanti Gennaro, sì Antonio, lo passi, non lo passi, lo crepi, vai dimmi lascia tu casa però, Gennaro, lo vedo, anzi lo sento, sta andando magnificamente bene, molto molto forte, complimenti, veramente alla grande, non ci stanno problemi Gennaro. Se ogni volta che si mette a modulare Fabrizio lo schiaccio, esco in macchina e lo schiaccio. Lo schiaccio qua. La schiaccia. No, via niente, deve essere sotto casa mia adesso. Sì, la conosce Fabrizio, ma l'ancora tutto che io l'ho anche sentito, non c'è problema. Ce l'ho da tanti anni, io, Gennaro. modula o normale oppure con l'eco, capito? C'è un sistema di connotazione e quindi lo mettiamo lì come omologato, già va bene. Ok, ok, non c'è problema. Buonasera anche a te, Vannino. Vai, fatti girare la ruota, se non parliamo sempre noi. Provi di riprendi per Vannino. Ciao Vannino, ben si in pippa. Oh, faccio un giro di corso, il trabombo è entrato poco fa, non l'ho salutato, quindi dovremmo essere, perché io già sono sbarorando, Vannino, io, Claudio, il Grolde, Fanchetto se non sbaglio, Positivo, giusto? Minchia, sta tornando la memoria, mi sto ringiovanendo, perché per carità, avanti Vanni. Ciao, buonasera a tutti, è così, mi sono che ci sei, ma domani che ci fa? Oggi io ho fatto l'altro giorno, adesso sono a riposo, perché poi faccio le notti. Oggi hanno bloccato, non è entrato nessuno, oggi niente, sai Vanni? Ah, io fino alle 11 ero giù e non tutto bloccato. Però non si capisce se qua c'è una riunione, non so se sia al corrente, non so come sia andata a finire perché pure di stasera non sono scelto. Quindi avevo voglia, sono andato a casa di Franco a fargli il lavoro, le lampene, il baracchino e così, per passare la serata lì. No, non lo so, oggi niente, però stava dicendo che non si, almeno loro dicono che se non c'è qualcosa di buono, so. Si continua e chissà dove si andrà a finire. No, in quella riunione si è detto un po', praticamente niente di nuovo, non si è... Sì, però dovrebbe, probabilmente fanno rientrare queste lettere per qualche mese, perché ci sarà la fermata e poi si sarà contattato. Non è già successo qualche anno fa questa storia qua. Non so cosa dire. Il problema è che secondo me sono organizzati un po' malino, perché stanno creando disguidi che poi si mettono contro un po'... Non sono la mano destra, non sa quella che fa la mano sinistra, e si stanno battendo, uno dice una cosa e uno dice l'altra. Hanno dovuto tenere una linea di condotta bella ferma, così punto e basta. Comunque la produzione non deve lì, non deve mancare, se no ti mandano i cellerini, quindi facciamo solidarietà, quando entra il turno, quanto facciamo? Mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora e mezzo, poi si entra via, e reperibili, non li puoi bloccare, e fai entrare esclusivamente le ditte. Non lì un blocco, le ditte si guardano in faccia con l'altra e non entrano, automaticamente gli impianti si fermano e qualcosa dovranno fare, capito? Noi abbiamo in città, non impianti, una parte di impianto mio che mi compete in tutta impaginata, fra un po' non so più come si gestirà, perché sto sporco, non riescono a fare le pulizie, abbiamo tutti i nastri incasinati, i filtri fermi. Cioè, addirittura ieri ci hanno chiesto, noi mali lavati i filtri, lavati i filtri, poi cosa mi hai preso? Perché gli ho detto, per la pulivapo, vai, gira le balle, ma cosa ci vuole? Se non ci vuole niente, scendi tu e lavateli, cioè, lo portano 20 anni mi dice di lavare, perché mi hai preso per lo ziriaco di turno, vai, che non è una mansione mia, arrangiati. Scusate, tagliate, sono felici, certo. Tagliate, con secchiello a tirargli l'acqua, o le pulizie per terra, quando è lì per il tagliato un fanno, lui ci vuole la costruzione, il corretto, i figli, bisogna lavare con le mani secche, questo, vabbè, e poi hai ragione, io faccio il mio. Ma voglio dire, cosa? Ah, ma dici che... Stanotte bloccava anche il terzo, non lo so, è sentito lì almeno. Ma comunque possono mandare chi vogliono, anche per lì non ne fanno, rimangono lì. Il turno è per sempre, comunque, anche oggi, cioè, alla fine, basta che le dovete scuse, le intenzioni che guardano in faccia, se ne restano furbi, possono mandare chi vogliono. Anche perché poi, anche se è stato lui, alla fine, diciamo che una parte non potete fare il lavoro volendo. Il resto, insomma, chi lo fa? Nessuno. vabbè, se non si è capito oggi vuol dire che la cosa, almeno. Non prenderà più avanti di sotto e blu, di disastro la truppa, Luca è messo male, certo non si è sentito io che ha grossi problemi, però si crea turbina di vita, funziona così, vabbè fa bene, lo siamo via tutti, la mano va sotto, se si entra o meno. Sì, vediamo, vediamo, scusando gli amici, vediamo, non si sa niente, ma il discorso è così. Noi anche ieri siamo arrivati, vabbè, cosa puoi fare per periquidi nostri? Certo, ci manca, il braccio è fuori, non entra, è a trovare la testa a fettocco, qualcosa puoi fare, si può che ci si tratta a parte programmazione, logica, regolazione, tra quella roba lì ancora, non tutta, bene o male ancora c'è qualcosa che operativi noti, bene o male, quella roba particolare che ancora le mani lì su una scheda elettronica, su un sistema, su un computer le mettiamo noi ancora, però per il resto cosa puoi fare, punteggi, tutto quello che si tratta, se la ricca ci blocca tutto, noi non, sì, gli segui i lavori e basta, quindi poi alla fine se c'è poi una serranda ti metti ai guanti e provi a fare una lava, due controlli, due cose, arriverà l'assistente in qualche maniera, si arrangerà un pochettino, anche lui ci si mette ai guanti e proverà qua, giusto due cose, poi il tutto è fermo, da noi abbiamo sostituito filtri esaustori, tutti buttati, bisogna lavarli, ma abbiamo preso per la certa pulizia, non per togliere niente, ognuno è il suo, e se la entra me li lavo, non vuole entrare, cazzi vostri, a me non mi compete. È tutto così, capito? Abbiamo gli altri geni, sono altri tutti incasinati, sporchi, cazzo, non sappiamo più dove trattare la roba, dove buttare dei cittadini, stiamo riprenduti i serbatoi, boh, fra un po' automaticamente abbiamo preso i buccati, abbiamo fra un po' abbiamo saputo, è tutto che non succeda niente di particolare, che si blocchi qualche macchina che rimane ferma, infatti boh, adesso domani e dopo ci sarà lo sciopero del parco, quindi il carbone è quasi finito, dovranno girare a olio, la nave non la fanno entrare domani, non so, è certo una situazione buona. Ossiacci, solo vediamo, aspettiamo, dai, allora dai, facciamo girare, riprendi, fa che? Ma, cazzo, questo è impazzito, riprendi, fa che? Forse ha fatto un attimo di pianto, perché ha segnato il mira, ma non è successo niente, Antonio, non ti preoccupare, non è successo niente, è sempre alla pari. Adesso Messi me ne fa un altro e ne devono fare altre due loro. Sta diritto che fura dalle palle. Thank you. 78 ce li ho già. Non ci sono problemi. Va bene. Quando appena 2 minuti te l'ho detto, vengo a trovarti, mi porto giù tutto e facciamo mettere a posto tutto, capito? Vabbè, non so come porto lo strumento e te lo controllo, te l'ho detto. Devo avere 2 minuti Gennaro, perché in questo periodo sono incasinato perso. Capito? Ti dico già che lavoro sia a Pasqua che a Pasquetta. Perciò ti ho detto tutto, non ho 2 minuti per dedicarmi a fare qualcosa. Comunque, te l'ho promesso e ci salgo, una mattinata ci faccio un salto, magari ne approfitto per andare all'impianto di Tiesi e mi avvicino e mi prendo tutto, lo porto giù e controlliamo un amico qua cosa ci vuole, non ti preoccupare, ok? Sarò lì, vediamo un attimino. si entrava uno sempre più tardi. Il problema non è entrare un'ora e mezzo più tardi. Carte la mattina, che ti fanno? Siamo noi la notte, un conto esce alle 7, già c'è il coppo. Per uscire alle 9, 9 e mezzo, cioè diventa pesante, capito? Quindi devi fare un'altra notte, per carità. Ecco, ma speriamo bene per tutti, perché comunque tu hai tutto voli, quindi se ne vai certo o se ne vai, ma per voi quando riusciranno a toccare a voi quello lì è un altro problema, quello è un gioco ancora più, quando sarà si vedrà, perché lì l'avevo sempre detto, lì il problema è che le ditte sono fuori e le devono trattenere, a un certo punto devono entrare per non fare casino, a noi fa il nostro gioco se ci trattieni fuori, basta un giorno e si blocca tutto, quindi quello che credo che ci sia il rischio che la gente salga su tali di che spingi quel pulsante per favore, ma fai tutto, quindi che metti in mano. Ciao, capito? No, ciao, è una cosa pericolosa, è un gioco pericoloso, lì non produci scarto, è un gioco pericoloso, rischi di lasciare Sardegna al buio, ospedali e tutto, diventa un casino, ma è una cosa da scherzare, chi vivrà vedrà. Scusa, in effetti comunque diciamo che è un sito molto particolare, perché tu se dovesse succedere guai, capisci, i danni saranno enormi, anche i disagi, non pensare che sia una cosa facile. Infatti io quando lo dico dico, dai così, non pensa se rimane tutto l'ospedale fuori, anche se tu restano i gruppi, però i gruppi non è che possono permettere di far funzionare tutto, tutta una sola emergenza, quindi immagina un po'. Ma comunque infatti pensiamoci al momento, si vedrà. Se siamo lì, vediamo, siamo, lo sentiamo e lo vediamo dall'altra parte. È così, radio, è la crisi, capito? Quando c'è crisi, spero mi abbia pagato, perché poi con la scusa della crisi, no, 5 mesi, non è nulla. Già ti pagano. No, per me non è questione lo schiavetto, è che una... ho le cose che sono io, però è una persona che c'è 20 anni e quindi io mi sono sempre fidato, è un mio, non è neanche un mio collaboratore, è nella mia squadra, le direttive le ho sempre date io, però è una persona che io in mia assenza mi ha sempre coperto, capito? Questa dimenticanza non me l'aspettavo neanche io, soprattutto da lui. Posso capire da un profano, una persona nuova, uno che non ha mai visto le cose, però a me me l'ha detto, si è scusato, ha detto che avevo un intervento veloce in un altro impianto e pensavo di aver chiuso la sera cinesca, invece sono andato via e di sabato, tra l'altro che era da solo, come faccio io, un sabato lo fa lui, un sabato lo faccio io, una domenica lui, una domenica io, siamo quelli che facciamo il giro di controllo settimanale per vedere se tutto è a posto, e lui quindi sabato mattina è andato via tranquillo, tra l'altro negligenza dove io gli ho contestato da amico, non da suo diciamo superiore, chiamalo come vuoi, però da amico, gli ho contestato il fatto che il telefono lo doveva spegnere, in modo più assoluto. Invece è arrivato a casa, aspetto il telefono, e quindi l'hanno cercato, l'hanno chiamato, alle 3 non rispondeva, insomma hanno aspettato sino a ritracciarlo, l'hanno ritracciato, alle 5 hanno chiamato a me e sono dovuto andare a Nulvi a riparare, oddio a riparare, ho chiuso una sala cinesca, non è che... E ho messo in sicurezza l'impianto perché ha lasciato una sala cinesca di recupero aperta e quindi immaginate cosa è successo. E quindi sono intervenuti la forestale, hanno fatto 2.000 euro di multa, l'azienda, e perciò l'hanno sospeso. E mi dispiace perché è una persona validissima, sbagliare umano, però da lui non me lo sarei aspettato neanche io, perché abbiamo sempre... cazzate stanno facendo gli arbitri. Questa è la finale di Champion, quindi cioè non credo che quest'arbitro sia messo lì per fare parte al Barcellona. Perciò se ci sono vuol dire che c'erano, vai, tutto qua, ok. Comunque te l'ho già detto la prima, il Barcellona è superiore e poi a casa sua è una molla, già ha pareggiato a Milano, quindi immaginate in casa sua. Il Milan perde 4-1 oggi, tranquillo. Scrivilo perché perde 4-1. Capito? Ok, Gennaro, avanti, per te il microfono. Okay, io ce l'ho in Maraguglio. Quindi è chiaro che lui l'hanno sospeso, perché io tra l'altro ero arrivato. fatto, ammesso che ho sbagliato, ma purtroppo in questi casi chi sbaglia paga. Questa azienda è così, poi se fosse, non fosse intervenuta la forestale, è chiaro che non sarebbe successo niente, avremmo tappato noi, capito? Anche col mio intervento l'azienda ha chiamato a me, vado io, copro, non sarebbe successo niente, però una volta che intervengono loro e fanno la relazione, fanno il verbale, l'azienda si deve coprire, quindi la sospensione te la va per forza. Ok, va bene, Fabio, riprendi. Io vi sto ascoltando, sono qua facendo, facendo una cosa, anche io, due cose, ascoltando, e vabbè, cosa ci vuoi fare, così è la questione, essere attenti, infatti, a esporsi il meno possibile, e che se sbagli paghi, altro. Comunque, una sospensione, basta, oppure entrerà e via, vabbè, la bollata è anche giusto, se non sbaglia, se assume le sue responsabilità. Ti servirà direzione la prossima volta, come ci vuoi fare, purtroppo è così, Secondo me gli fa un pochettino bene anche questa cosa, perché l'ha detto pure Claudio che non è la prima volta che fa queste minchiate, e secondo me gli farebbe un pochettino bene per svegliarsi un po', solo con la seconda volta però sono cavoli amari. di un responsabile di squadra, di un assistente tecnico per condurre un po' anche la conduzione, le manutenzioni e mettere a tempo il ciclo pian piano. Io in questa società è già la seconda volta che ci sono, capito? Perché il primo passaggio l'avevo fatto con la Privesa, quindi di questa lottizzazione che ha quest'anno sono pian piano, quindi è chiaro che loro hanno la massima fiducia. Però dicono, porca miseria, questo è Giuliano Piruzzi, è di Sosso, pelato, alto, cioè stronzate. Cioè, ma non è possibile che tu devi tagliare l'erba mettendoti il fiorino in mezzo ai piedi? Cioè, tu immaginate un vialetto, no? Un vialetto dell'ingresso di un impianto, Vanni. Cioè, tu devi tagliare l'erba lì, la macchina te la metti fuori dal cancello, possibilmente lontano, no, in mezzo ai piedi. Giuliano, stai attento alla macchina, spostala, guarda che faranno, ci sono pietre, oh l'iro attondo l'iro, cosa ne fai, il segno della macchina, l'erba cosa abbassi sotto a tagliarla, cioè questi devi vederli. Un giorno non mi ha ascoltato, sempre in un piazzale grande di un impianto, non ha spostato la macchina, si è fuori a tagliare l'erba, una pietra, pum, il parabrezza, il fasciato del parabrezza. Sono arrivato, mi guarda cosa è successo, e cosa è successo? E faccio del barretta. Sono tagliato l'erba. Ma non sono neanche accorto. Ha detto, va una cosa, buon appoggio verso l'ispiratore, va. Adesso cosa devo fare? La macchina non che rimane, o senza parabrezza di Nandi, al socio. Boh, qui la tira è morto. Ho chiamato la responsabile del no, ho detto così. Fai una cosa Claudio, accompagna la tua macchina, lasciate lì, domani veniamo a prendere col carattrezzi e venga in ufficio a ritirare la lettera di licenziamento, licenziato in tronco, per una cazzata. Cazzo, ma non mai sei così imbecille, te lo dico e continui a fare le cose come ti dia da te. Vabbè, ce n'è anche a te strano, ce n'è anche che fanno peggio, ma io parlo per tutti gli altri. Se io adesso ho avuto un'altra, non sarei, ma io parlo per me, no, ho avuto un altro, diciamo, come si chiamano, due sbigli, oppure, come è meglio chiamarli, tutti i giudizi di giù. Beh, io mi sono attaccato di nuovo perché l'altro giorno, proprio per adesso, l'altro giorno, insomma, la settimana scorsa, quello che c'era da fare, no, allora io preparo tutto, e questo lei fa da solo, tutti i maschi che hanno, quindi lì, e anche fa tutti i pensieri senza il gesto, o giungo, così il Fabrizio lo sa, giù da solo, non può lavorare, anche per una forma di sicurezza, non c'è altro, se succede qualcosa, insomma. E quindi via, gli tiene la bella, tanto adesso vedo cosa si può fare, può farti capire, ma ce n'è anche quindi, c'è anche chi è traduttivo come sono e chi cerca di farti magari capire. E senza farne di più e via. Vabbè, ci saremo altra pubblica. Purtroppo è così. E poi sono quelli che si vogliono più bene, si fa per dire. Sempre Vanni, anche perché l'esperienza mi ha insegnato a farmi i fatti miei, se devo sollevare la voce quando è giusto farlo, la sollevo, però ti posso dire che sul lavoro sono apprezzatissimo perché parlo in faccia, non ho piede la lingua con nessuno e collaboro soprattutto con tutti e tutti collaborano con me, però ci sono quei furbetti che sembra che come a volte capitano, che c'è sempre uno, infatti l'altro giorno gli ho detto, l'ho risposto a tono, gli ho detto domani mattina prima di andare a prendere il tuo collega, passi, rifornisci e mi porti le carte carburanti a Sorso, io sono a Sorso. E ti voglio buttare una bandiera a doio io. Mamma è sede, sono toccato, non ho capito bene. Ma sì, quando le fornisci, chiudi tutte le carte carburanti e poi me le porti a Sorso. Dove venire io vado all'impianto a prendermi? Non lo so, vedi tu. Il lavoro mio lo fai tu, io faccio il tuo, lo facciamo così. Lo cancellato quando accompagni il tuo collega, invece di andartene a casa, vieni a Sorso. Lasci la macchina in servizio qua. Ti bidi un Bulma e te ne andi a casa. Cosa hai detto? Ti bidi un Bulma e te ne andi a casa, che da domani tu sei a piedi. E poi dici, quando vai a trovare tuo padrino, che te ne ho preso la macchina io, Claudio Marti, capito? E mi lisci tutto dal burro, hai già detto. Non ti permetterei più di rispondermi così, mi hai compreso? Io non so con nessuno, ma tu sei zero. Hai capito? Succede, via. Ma, causa finita. Io, se si rientra, ma mi è abbassato un po', ma quello mi arriva. Se si rientra, mi siede, aspetto che mi dicano cosa devo fare. Io non so che il nome è. Ruia, c'hanno un errore, non vuoi dire, no? Perché pensa che c'è qualcuno che voglia rifare qualcosa. Vabbè, adesso aspettiamo. Tempo al tempo pure ne parliamo. Tanto giù, guarda, giù è una cosa sola, se lo vuoi mettere nell'altra sicurezza, lì, in campo di fuoco. E infatti farò così. Anche perché sono stanco di mi ripetere, di fare, di andare, di dirmi, anche perché le poche cose che sanno le ho insegnate io, però funziona in questo modo e ce n'è comunque di crisi, ce n'è di media, a me comunque non è che mi interessi, non mi è mai fregato niente da quell'altro lì. E quindi nel senso di farmi, boh, di dire che io sono, io vado lì a lavorare con quel resto, non si può. Però chi c'è mi sta facendo pregare qualcosa, non so, non è stato aperto, di poi parlano come dico io, quando mi sbagli ti faccio pagare, così mi va a fare. Ah, più freddo, mi hai visto, è abbassato anche il correnne, per il mare, pulita la perfetta. Lo so. No, ma neanche io ne configuro, io guarda, sono entrato nel 97, sono entrato con la casa madre, quindi non ho grossi problemi, non mi sono mai vantato di niente, e quando mi hanno detto che dovevo fare determinate cose le ho fatte senza battere ciglio, e perciò non mi occupo niente, quindi sono un operaio come te con un incarico diverso dagli altri, senza farlo pesare mai nessuno, ho sempre portato avanti la baracca per quanto mi riguarda, però quando una persona inizia a girarsi in una certa maniera, allora un po' mi dà fastidio, capito? Perché non ti faccio pesare niente, tu mi rispondi così, come a dire, io sono incozzato, quindi tu a me non mi devi dire niente, queste cose non vanno bene, soprattutto davanti a colleghi, capito? Mi chiami da parte, me lo dici, non ho problemi. Non ho nessuna difficoltà, è stata proprio così una cosa, perché mi stavo facendo relazione, adesso me le ho portate a casa, infatti non mi faccio più il rimpianto, me le porto a casa, oggi me le ho portate, domani inizio a farmi le relazioni, c'ho tempo sino a prima di Pasqua a consegnarle, perciò non ho difficoltà, però se ho bisogno di una cortesia, glielo ho chiesto per cortesia, non avrei giù mandato per obbligo, capito? Quando mi riferisco ai miei colleghi mi riferisco sempre con molta educazione, però se mi manchi di rispetto allora cambia la musica, no? Mi sembra che sia così, capito? Credo che sia per tutti. Se c'è rispetto, c'è rispetto, se rispetto non ce n'è, allora io ho la possibilità di sollevarti la voce, ti sollevo la voce. Infatti è rimasto una settimana a piedi, andavano a prenderlo per portarlo a lavorare, capito? Perché sono stato io il promotore delle macchine, anche ultimamente c'è stato un casino dei chilometri, chi la usava per i fatti suoi, qui e là, chi usciva fuori budget giornaliero dei chilometri, sono stato sempre io a coprire. E col mio consenso l'azienda ha consentito a rimettere le macchine dove erano. Quindi tu mi rispondi così a me, ma ragazzi, beh, hai fatto una gaggata. Gennaro, ti rimetto il cambio, perdonami, ma tu sicuramente non senti a Vannino, non senti a Bombolo, e pare che io stia parlando da solo, eh? Ok, riprendi, poi vediamo se è entrato anche Falchetto e Fabrizio. A me stai dicendo, Gennaro? Non ho capito, Gennaro, si possono cambiare che cosa? No, se quello c'è la scheda come il mio, sulla scheda, capito? Perché quelle schede lì, quelle schede colte che hanno quei baracchi lì, riescono con quel tipo di bip, ce n'ha. Sì, sì, sì. La scheda colte c'è inserito quel bip lì, anche il mio è così uguale al tuo. E per poterlo aumentare o cambiarlo bisogna fare un lavoro particolare che sinceramente io non so, bisogna chiedere a Luigi Vulcano, capito? Sì, dispiace anche celeste, bianco e verde. Il mio addirittura è celeste, è tutto celeste, mentre il tuo è rosso. Quello si può cambiare perché ci sono le dentelle che si sostituiscono, si mettono di qualsiasi tipo di colore, capito? E non hai assolutamente problemi. No, a me me l'ha fatto Luigi Vulcano, ci vuole molta pazienza, poi io non ci vedo, sono vecchietto e quindi non ci vedo a fare quei lavori lì, capito? Però è facilissimo da fare, se lo vuoi fare bisogna dire a Luigi e non c'è problema. E sottraimi, intrigiorai, e sottraimi, oh, Antonio Bombo, le Sant'Ei, capito? Ed è iniziato il secondo tempo, perde 4-1 al Milan, se non 5, però 4 a 1, forse ci scappa anche il quinto. Certo, due rigori regalati, che bella cosa, ma vediamola, che vediamo regalati i rigori, che sono tutti truccati queste partite secondo me. Perché tutte e tre rigori erano, tre gol di rigore. Uno di rigore e uno fatto, cazzo di punizione. Perché poco fa non c'era, perché sono rimasti tutti quanti per pesci. Ha detto, ma tutti quanti facciamo la voce, ma non c'è. Chi ti ha pagato dove ha fatto? E Anto, io continuo a ribadire che in campo c'è l'arbitro, e che è messo lì per fare il suo dovere, se li dà i rigori vuol dire che ci sono, vai. No, beh, terzo gol già era bello comunque, vai. Va bene. E vediamo un attimino, vediamo di richiamare a Fabrizio, ci sei, sei rientrato? Sì, no, sono qua che vi sto ascoltando, sto facendo anche a noi, vi sto ascoltando. E quindi ti rilancio e fai girare, vai. Beh, se vuoi scambiare due chiacchiere con Vannino non c'è problema, siamo qua anche per questo, stiamo parlando un po' della vita quotidiana del lavoro, niente di particolare Fabri, se vuoi intervenire no, non ci sono problemi, puoi tranquillamente chiacchierare con Vannino e farvi due chiacchiere, non c'è problema. No, mi sono qui, no, io mi sto ascoltando, un attimino. No, stavo facendo due cose, anticipo che stavo guardando sempre sul lavoro, ma la disposizione, Cartucci era un po' che non, anche su Ballarovic, per carità, era un po' di giorni che era un twitter quando scendevo al centro studio, però sono passato un attimino a fare le poste e cose. In che mancanza dove passavo non facevo altro che sentire gente parlando di lavoro, gente disperata. E adesso ho incontrato un'amica che frequentava e greca con me, ma ragazzi no, cioè a me come va? E sto bene, questa c'era una gioielleria proprio lì, e sto bene, che tu vuoi, si complica, crisi. Vado più avanti, c'è la signora al telefono, devo sul travaglio, quei figlioli, guarda, sta parlando, vai lì, stavo compilando lì la ricevuta, le poste, altre queste, sì, non uscire dalla cosa del mercato, anche una chiavattina, minchia, ma tutti gli stessi argomenti, lavoro, crisi, che non ne hanno, che stanno lavorando due giorni, che figli sono tutti uguali, cazzo, cioè, ma non è dire che ho fatto un discorso, cioè quei discorsi che senti camminando, se alle imposte ti fermi a scrivere, ti fermi a prendere un caffè, ti prendi, cazzo, sono andato a prendere una marca da bollo, cazzo, ti dico che a nessuno che prendeva niente, cazzo, nel giro di quanto è, 2 minuti che sono stato lì a farmi fare una fotocopia e prendere una marca da bollo, nel giro di 2-3 minuti, cazzo, mi dà un cazzo 6 ieri, ho fatto un piccolo lavoro qui a Sosso, sono stato al bar, che è quello della stazione, sono per qui. E infatti nel frattempo che ero lì parlando, era sempre pieno la mattina, mi faceva colazioni, insomma, abbastanza completo. E gli ho detto, guarda, le informazioni, mi ha detto che collaboratore mi ha detto una cosa impressionante, c'è avuto un calo anche di benzina, cioè di rifornimento, no? Di consumo impressionante. Dice che è sceso di parecchio, ma è così, la gente circola meno, e tu ti vai in pizzeria, prima andava due o tre volte, adesso non ci va, e non so lì ormai, e visto, a me è arrivata la bolletta, cioè impressionante, 160 euro, 2 mesi, e più ti ricordo che c'è anche molto voltaico, 3 kW, pensami, di gennaio e febbraio, roba da mastica, ci sono 60 euro di spese, di corrente e tutto il resto, immaginate cosa fa. È assurdo, ci stanno spellando vivi comunque, dove ti giri, perché poi alla fine nessun di che, quasi quasi per andare a fare. È brutta cosa, molto brutta. Sì, ho capito, non ci siamo più. Io non so che cavolo, poi c'è chi sta un po' meglio, un po' peggio, chi sarà destinato per stare peggio, che cosa, però secondo me non usciamo più, o cambia il sistema, il lavoro comunque andrà sempre a diminuire. E alla fine i consumi si bloccano, i negozi chiuderanno, rimarranno i grossi centri commerciali che lavoreranno solo loro, per cui lavorerà in questi centri commerciali a 2 lire, i costi delle case, di tutto, sono altissimi, bollette, non so dove andremo a finire, soprattutto per i nostri figli. Infatti il problema sarà lì, ancora ce ne manca per noi, però è lì la differenza. Sta diventando sempre peggio, c'è una specie di ricatto in giro, sai, questi grandi ricconi, questi grandi multinazionali utilizzano questo sistema, sai, più miseria c'è, peggio è, insomma. Ma una cosa ti dico, adesso c'è qualche disperato che vedi come è già successo prima in questi giorni, che si ammazza, che si brucia, che si spara, ma io non lo so se prima o poi succederà che qualcuno ne ammazzerà qualcuno, e allora inizieranno a cambiare forse le cose, perché finché uno si faranno da solo è insomma. Ma quando iniziano gli disperati a uscire fuori e a sparare qualcuno, vedi che le cose cambiano. Non c'è il verso, intanto comunque sono tutti su, tipo questi di giù, no? Per rientrare sempre nel stesso discorso, vedi, sono così e boh, non c'è il verso, taglia e boh, dobbiamo guadagnare, capisci? E ormai c'è questo il sistema. Ci sono grandi persone, diciamo, per dire persone, per non dire multinazionali o comunque ricchissimi, che non vogliono, non vogliono pagare niente e così via. Non lo so, prima o poi ci faremo la guerra. Mica mattina, non lo so, dove andremo a finire, non lo so. Comunque, chi vivrà, vedrà, non lo so, anche la loro casino. Sì, ma dove vai? Ma io qui che sono anche in mezzo ad altre cose fuori, cioè sono tutto a puttana, ci rimetti solo ormai, se altre attività o qualche cosa, capito? Non ne vale nemmeno la pena. Come più rimani fermo e più vai. posto in quella zona lì. Cosa ci pure, se mi hai visto, ieri mi avevo preso la macchina mia, ero con la Modus, no. Allora non eri tu, no, che si assomigliava molto, cosa che ha fatto, quando abbiamo passato la potenza. Ok, dai, riprendi Claudio. Per fare bene ci vuole perché è tutto aumentato. Però gli stipendi non sono aumentati, ma l'hanno per i vostri, per i vostri, ragazzi. Tanto che l'ha fatto. Mamma mia, ragazzi, facciamo perdere la sua marito. Popolo, un casotto, è un casotto, ma so, non se ne prende che più di aeree. La maggior parte stanno chiudendo, perché non ce la fanno più, sono tartassati, lavoro non se ne vede. Capa, ma lascia stare, che ruzzichendo, dopo ci mangiamo un crocco. Lo sai com'è? Il topo quando si ruzzicheggia un cacio, poi non ci rimane più niente. E così sono loro. A chi non sa, ma si impiccano in uno baruno, che altro vennecchi vedrebbero. Ok, dai. Scusa un attimino, popolo, che c'ho una bassa. Barcelona. È la migliore squadra al mondo. Vabbè, fischia, ancora stiamo parlando, il prox. Sono entrato per salutarvi Claudio, buonanotte anche a te, non trabacco per domani, dai. Avanti, Grodde. Fabrizio, avanti. Ok, ok, riprendo io. Buonanotte, caro, vai, non lo so, io adesso non voglio riprendere, lo so, l'avrei preso e te l'avrei fatto sentito col microfono, qua quello che c'ha Gianni, e pure gira bene senza nessun problema. Guarda un po' adesso, sarà meglio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anch'io Fabrizio, anch'io l'ho comprato, non l'ho mai usato, ma se si mettono a toccarlo è chiaro che, ma magari è anche una, cosa che posso dire, una partita difettosa, perché non l'ha portato anche Mauro stasera, anche il suo fischia, il mio, se vuoi te lo faccio sentire, non fischia, capito? Ci metto 2 minuti e attaccherò all'agguanto, per nuovo nuovo dentro la busta, l'ho comprato, sarà neanche un mese fa. Niente, non c'è caso di ordinato una qualcosa, ho ordinato anche quello, funzionano bene, però boh, ce ne sono alcuni che non vanno bene. È un diritto adesso, guarda un po'. No, un attimino che lo prendo io, guarda, aspetta. Un diritto, ma cosa che è? Gennaro! Vabbè, dai, divertiti. questo qua. Dunque, per mio parere c'è qualcosa che non va con il microfono di Antonio. Non è questione che lui tocca o non tocca, io l'ho sentito sempre a fischi e con qualche problema, capito? Quindi sicuramente c'è qualche problemino di fondo. Va bene, dai, vi saluto, buonanotte a tutti. Gennaro, se mi stai ascoltando, io sono qua a trovarlo, ti ho già salutato prima, ciao. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao, Gennaro, mi ascolti adesso? Oh, io me ne sono andato, eh. fa tutti, buonanotte, un trabacco per domani se lo fate, se non lo fate buon riposo. Ciao a tutti, doppio lungo RT, esecutivo, ciao ciao. Va bene, buonanotte, giorni a domani, tutti è strano, cos'è? Questo però non è partitato, è stata rimanda qualche azione, vediamo un attimino se c'è il grotto, grotto. Cercarlo e non ho fatto altro che sentire persone che mi dicono ehi quanto vuoi quando esce bene il mio non fischia, cazzo lo sto cercando, quindi o mi dai una mano, mi sposto di canale e faccio questa greca e mi metto nella condizione di cercarmelo da solo. E così, cazzo c'è un mese provare a settare questo cazzo di microfono, c'è molto collegato il microfono. A parte che non mi hai mai sentito più di tanto chiedere, ma è una luce, uno dice vabbè va, non ho tempo, non ne ho voglia, ma non è che il mio c'è benissimo, no il mio non è mai uscito così, non è mai fischiato, e tu sei un'ora col cacciavite lì infilato e stai aspettando che ti diano un attimino di tempo per poterlo girare e creare un settaggio, cercare un settaggio e chiedere un consiglio. Vabbè. Ma io non lo so, vedi, tu non mi hai sentito dopo quanto cosa hai fatto con questo microfono di fischia, basso basso, sempre con cazzo di tigia, proviamo, non so, vedi un po' meglio, sono la luce di cazzo di tigia. La bada, adesso me ne vado a nanna, dai, a parte che stai uscendo, ti sento stanco, però sei compresso. Adesso magari mi senti meno compresso. Vabbè, dai, dici che... chiudo, dai, ci sentiamo domani, ma devo dire il lavoro. Oddio, e comunque la sua usi mi sembra che va bene adesso. Passa in terra, ma qual è il problema però? Ma la disponibilità delle persone, stai compreso, boh. E un'ora che dire, adesso te ti piace il mio, ma tu consiglio adesso, cosa dove stai a attaccare il tuo esce bene, a prescindere, boh. Ho voglia di ascoltarlo, lui come ascoltatore si è abituato, adesso mi sembrava la meglio, lui col baracchinetto mi sembrava la meglio. Cosa che stai dicendo? Non sto capendo. Adesso mi stai capendo, o te lo devo ripetere così, mi stai capendo. Andare a prendere il telefonino, me lo sono dimenticato in macchina. Sì, allora, buona.